Il punto di Stefano Folli. Fa bene il nostro Presidente del Consiglio a chiedere che il prossimo Presidente della Commissione Europea, Juncker, si impegni da subito a dare un'anima e una prospettiva all'Europa, la quale non può essere identificata solo con il rigore e l'austerità, purché questa richiesta non sia fatta passare come una precondizione per dare il via libera dell'Italia alla nomina. Non abbiamo questo potere di veto per come si sono messe le cose e l'intesa sul lussemburghese sembra essere cosa fatta. Però il tema politico e forse anche morale di un'Europa che non può coincidere esclusivamente con la moneta unica c'è tutto. E ci si attende che l'Italia nel suo semestre di presidenza sappia suscitare qualche emozione intorno al progetto dimenticato dell'integrazione che dovrebbe essere politica e istituzionale. Senza passi falsi, si intende, senza ignorare i rapporti di forza, con prudenza ma anche con determinazione.